se trudi, sempre se trudi, goni strugite, goni strugite, stegni e piatto, ti ne vides nel petto, ni to moretto, liato tu perso, biaga crete, biaga crelita, i se sta via crete, i mal ti te nosti, ti golami te dni. Non ti pinte per grazie, ste ne meristi, da cacca tu sicchi, e na cista liubor.